18. Quando Nicholas Herkimer tentò di ricaricare la pistola, si accorse che le mani tremavano. Dovette appoggiarsi al tronco, guadagnare i respiri necessari, inserire lo stantuffo nella canna, puntare l'arma alla cieca oltre l'albero e premere il grilletto. L'unico rumore che seguì fu quello del cane che scattava a vuoto. La gamba ferita cedette, scivolò a terra e rimase steso sotto la pioggia che stillava dai rami e gli colpiva il volto. Mani lo afferrarono e lo misero a sedere, la schiena appoggiata alla corteccia. Vide l'acqua scendere a rivoli fino a mescolarsi al sangue in una piccola pozza. Non ricordava più da quante ore lo avevano ferito al ginocchio. La gamba era un pezzo di legno. Il dottor Van Hoek gli sfilò lo stivale. Herkimer cercò di non pensare al dolore. Ascoltò il capitano De Jong sparare insulti dietro l'albero accanto. Il cognato, volontario lealista, lo bersagliava con gli stessi proiettili da poche yard più in là. Stava risalendo l'intero albero genealogico della famiglia, fin da prima che salpassero da Rotterdam. Herkimer pensò che doveva esserci anche suo fratello dall'altra parte, e i cugini di Willier, e quei grandi figli del diavolo degli Hug. Conosceva quella gente. Alcuni di loro avevano combattuto con lui durante l'altra guerra, insieme a Sir William Johnson. Buoni tiratori, Cristo Santo. Doveva ringraziare Dio per il temporale che gli aveva concesso la tregua. Osservò i corpi stesi attorno a lui, alcuni con il cranio rosso di sangue. I lamenti dei feriti contrastavano il silenzio della morte. Uno di loro protendeva le braccia al cielo, implorava aiuto con la voce che restava. Gli sembrò di riconoscere Sanders. L'avevano scalpato, ma era ancora vivo. Gli avrebbe concesso il colpo di grazia se solo le armi da fuoco avessero funzionato. Le urla di Neumann erano strazianti. Giaceva a pochi alberi di distanza con un proiettile nelle viscere, il sangue che grondava tra le dita strette sul ventre. Lo tenevano fermo in due, ma non riuscivano a farlo smettere di invocare Dio e la propria madre. Soltanto poco prima quegli uomini erano in piedi, vivi. Il tempo era precipitato all'improvviso, ma la luce diceva che era giorno inoltrato. «Non disperdetevi! Serrate i ranghi! Fuoco a volontà!» Aveva urlato gli ordini in Mohawk Dutch, per essere certo che tutti capissero. La milizia aveva obbedito, si erano comportati bene, come soldati, come un vero esercito. Pensò che avrebbe dovuto scriverlo a Schuyler e a Washington. Dovevano sapere. Li avevano respinti, per Dio. C'erano anche indiani là in mezzo e parecchi. Demoni della foresta spuntavano dalla terra stessa. «Non disperdetevi! Restate uniti!» L'attacco era partito dai lati della pista. Un'imboscata. Li stavano aspettando, qualcuno li aveva avvertiti. Il primo a crollare era stato Janssen, colpito al petto. In un attimo la fucileria aveva cancellato il bosco. Accecati dal fumo, si erano stretti in falange. «Su due file, divisi per coppie, uno spara e l'altro ricarica!» Sparare e ricaricare a turno alternato, senza lasciare ai diavoli il tempo di avvicinarsi. Tenerli a distanza. Con gli indiani non c'era scampo nel corpo a corpo, Herkimer lo sapeva. L'aveva imparato durante l'altra guerra. Quelli raggiunti dai Tomahawk erano a faccia sotto. Spostandosi piano, tutti insieme, come un gigantesco ragno, si erano rintanati nella macchia. La salvezza. Per ogni uomo un riparo di solido legno, una postazione per rispondere al fuoco, un buco da cui vendere cara la pelle. Herkimer sentiva il morale degli uomini traballare. La paura insinuarsi tra gli alberi, silenziosa e letale. Prima o poi la pioggia sarebbe cessata e le polveri si sarebbero asciugate. Avrebbero respinto un secondo attacco? Era la domanda che ciascuno custodiva dietro il proprio riparo, accompagnandola a una preghiera. Pensò a Ganzevoort, bloccato a Fort Stanwix, a poche miglia da lì. Avrebbero dovuto portargli soccorso, allentare l'assedio. Bisognava resistere come stava facendo lui, dietro i bastioni. Il libero stato di New York era in pericolo. Se avessero ceduto, gli inglesi sarebbero dilagati nella Mohawk Valley e avrebbero potuto attaccare Schuyler sul fianco sinistro. Dovevano aspettare che la luce calasse e poi farsi guidare dagli Oneida fuori dal bosco per organizzare la difesa più a valle. I lamenti di Neumann presero a martellare i timpani ancora più forte. Si dimenava, scalciava per allontanare la morte che lo ghermiva. Emanava panico, mentre dall'altra parte gli indiani facevano eco con versi animaleschi. «Fatelo tacere, per Dio!» urlò qualcuno. Herkimer pensò che dovevano resistere a ogni costo. «Capitano De Jong!» Agli ordini, signore. Il luogotenente strisciò fino all'albero. Vide la calza e il gambale intrisi di sangue. Passate la voce, ordinò Herkimer, ignorando il dolore. Ogni uomo resti al suo posto, rimanere uniti. Chi si sbanda nel bosco è spacciato. Se non lo trovano prima gli indiani, morirà di fame e sete. De Jong eseguì. Le parole viaggiarono sopra le frasche fino a perdersi nel fitto della boscaglia. Il dottor Van Hoek scosse il capo. La ferita è infetta. Avete il proiettile nel ginocchio da troppe ore. Herkimer sbirciò la ferita a denti stretti. Schegge d'osso spuntavano dalla carne. Tutto il dolore del mondo si concentrava sullo stesso punto. Fate quello che dovete. Il dottore annuì. De Jong! Gridò Herkimer col fiato grosso. Agli ordini! Che fine hanno fatto i nostri scout? Signore, gli Oneida sono laggiù. Dicono che hanno già sparato abbastanza. Dicono che l'accordo era di farci da guide. Non vedono convenienza nel combattere ancora. Riferite questo, sibilò il generale. Se riescono ad aprirci una via d'uscita, mi impegno a fargli avere due fucili a testa. Lanciò un'occhiata al dottore che versava rum sugli arnesi. Strinse ancora la spalla del capitano. De Jong, assicuratevi che i ranghi rimangano serrati. O si resta compatti o è la fine. In quel momento una voce risuonò dall'altra parte. Ehi, Herkimer! Mi senti? La prossima te la pianto in mezzo agli occhi! Il generale riconobbe il timbro e l'accento. Tossì e prese fiato. Riuscì a rispondere, con voce sicura. Allora ce ne andremo al creatore insieme, Harry Hoog! Lo strazio di Neumann riprese più forte. Una mano clemente gli tappò la bocca, trasformando le unghie in un ringhio sommesso. Herkimer pensò al morale dei suoi uomini, fece cenno al dottore di aspettare e appoggiandosi a De Jong riuscì a rimettersi in piedi. Parlò con quanta voce aveva. «Milizia della contea di Trion!» Un coro sparso di voce rispose dalla foresta intorno. Tutti dovevano ascoltarlo, anche gli alisti dall'altra parte. «Li sentite? Pensano di spaventarci, invece ci incoraggiano! Che vengano! Li abbiamo respinti una volta, lo faremo di nuovo!» Questo bosco sarà la loro tomba. Sarà la tua, Herkimer, gracchiò Harry Hoog. Il generale si avvinghiò alla spalla di De Jong. Ricordate che dietro di noi c'è Albany, gridò più forte. Se anche dovessimo morire tutti quanti in questa dannata foresta, una cosa è certa, non passeranno. Una bordata di incitazioni si sollevò dalle file ribelli. Herkimer si lasciò andare giù. Van Hoek mostrò la sega. Ma il generale lo bloccò. Procuratevi un'ascia, dottore. Non c'è tempo da perdere.